Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Cos'è sto casino? Ma dai, cos'è? Quale casino? Stanno montando un palco col palo nel mezzo. Cos'è? Ma come cos'è, Drago? Ma non sai mai niente. È il palco, no? Il palco di cosa? Il palco, ti spiego. Allora, lo sai che io mi lamento, no? Che qui ci si annoia. Che gli adulti alla fine vorrebbero essere trattati come i bambini. Sì. No? E quindi? No? Che quindi ci si annoia. Ci si annoia. Allora, ho fatto una richiesta. Come una richiesta? Mi hai saputo. Una richiesta per avere un po' di conforto, per non annoiarmi più, Drago. Cappa. Sono un adulto all'asilo, ma voglio comportarmi da bambino adulto all'asilo, capito? Quindi voglio entertainment. Sì, ma cosa c'entra tutto questo col palco, con un palo piantato nel mezzo? Noi siamo qui tutti i giorni in mezzo ai bambini. Sì. Dovranno pur darci modo di fare gli adulti bambini ogni tanto. Sì, ma no? Vai al punto, cos'è sto palco? Cos'è sto palo? Allora, io ho fatto una richiesta generica. Sì. Di divertimento per adulti, ho capito. No? E alla fine alla direzione qui all'asilo hanno deciso di fare di chiamare una ballerina di pole dance. Ma come una ballerina di pole dance? Pole dance, lap dance, ma non so bene, non so bene cosa farà. Ma le ballerine mezze nude che ancheggiano in un asilo, non il palco, è possibile. Il palo, è bellissimo. Sì, appunto. No. Mica le ho chieste io le ballerine, poi è una. Ma le chieste tu, sì. No, non l'ho chiesta, io ho chiesto, a me andava bene anche del room, E invece? Invece ha mandato Scoiattolina. Cioè. Chi? Scoiattolina. Ma che nome è? Scoiattolina. Nel senso che lo scuoiano, no? È un po' per bambini, Drago, no? I bambini, così non li impressioni. Ah, chiami Scoiattolina. Intanto lei fa tutte le danze. È una ragazza bulgara, Drago. Sì, è una brava ragazza. È travestita da scoiattolo. Ma no. E balla per noi, per ma te. È terribile. Per il papà, per il bidello. Io non voglio saperne. C'è il palo. No. Ma voglio saperne niente, me ne vado. C'è il palo, c'è anche il pelo. Da scoiattolo. Ecco, vedi, c'è un costumino da scoiattolo. Sì, però è grottesca. Ma guarda che carina. Ma vabbè. Sono scoiattolina. Signore. Mascotte e birrichina. Ma mascotte birrichina. Se ti piacciono i miei giochetti. No, vabbè, ma qui è giochetti. Puoi divertire con me. Ma siamo all'asilo. All'asilo, scoiattolina. Bambini. Mentre i vostri genitori fanno spese. Ma quale spese? Ma da dove arriva? Ma dove hai presa questa? Nei centri commerciali. Anche di Bulgaria. Conoscete il gioco di dottore e infermiera? Ma sì, la cos'è? Lino Banfi. Voi dottori e scoiattolina infermiera. Dai, Drago, è infermiera. Allora faccio puntura. Ma fa la puntura al dottore. Respirazione bocca a bocca. Sì, quella com'è? Faccio enteroclisma. Enteroclisma? Lei è scoiattolina. Sì, sono io. Mascotte birichina. Ci piacciono i suoi giochetti. Lo credo bene. Vogliamo divertirci con te. Dobro. Cos'è dobro? Che ne dite di gioco della caraffa? Non la stavo mai sentita. Gioco della bottiglia, ma prendi caraffa? La caraffa, metti in mezzo, fai girare. Vabbè. E a chi tocca bacia scoiattolina. Vabbè, ma gioco della bottiglia. Vabbè, giochiamo, no? Lei è scoiattolina. Prendimi. Mascotte birichina. Dove sono le mie ghiande? Le ghiande, le giochette. Se vi è piaciuto i miei giochetti, facciamo scavatisca elettrovoda. Cosa? È gioco di polizia segreta di Bulgaria, anni 50, 60, 70, 80 e anche un pochetto 90. È gioco per acqua bollente e scarica elettrica. Forse un'idea. La scarica elettrica. Adesso ti spiego. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto, sei tutto sudato, cosa hai visto scoiaiatolina, ti sei eccitato? Ma Drago, cosa, che domande fai? Vabbè, guardalo, è tutto tu sudato. Tu ti sei eccitato, ansimante, prima tu lamentarti, zitto, poi ti sei divertito. Non dirlo troppo forte, che è vero. Ecco. Cosa hai fatto? Ma che scoiattolino, ho inseguito una tigre. No, ecco, al massimo sei stato inseguito da una tigre, cosa adesso ti metti a inseguire le tigre? No, l'ho inseguita io, gli ho fatto pure paura. E quella si è messa a scappare, io l'ho rincorsa. E adesso dov'è? Si nasconde. A meno che non sia riuscita a uscire. Ah, beh, cioè. A uscire, perché com'è entrata? Scusa, cosa ci fa una tigre all'asilo? Ah, qui vicino c'è un circo. E sarà scappata da lì. E come hai fatto a metterle paura una tigre? Niente, mi ha visto. Ah, ecco, è bastata la tua presenza, prestanza. Certo. Certo. Vabbè. Uè, cosa ridi? Perché non ci credi? No, ci credo. Certo. Viene da ridere a pensare alla tigre che scappa inseguita da te, sì, un po' pingue che insomma palleggi così. Ma cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Cioè, il mio sguardo le ha messo paura, no? Adesso è da un po' di tempo che io guardo Sandokan, con Kabir Bedi. Certo. I DVD. Ma è roba vecchia, cosa che ti fa guardare? Ah, no, prego. E io faccio lo stesso effetto, l'effetto di Sandokan. Adesso alle tigri, quindi tu hai assorbito lo spirito di Sandokan in pratica. Bravo, cioè una cosa del genere. Hai capito, capo. Sì, insomma, Sandokan non gli assomiglia mica. Aveva i capelli lunghi, neri, la barba, i baffi, era alto, muscoloso, l'occhio, l'occhio di Sandokan. E poi era anche malese, alla fine era malese. Tutto un po' scuro. Tu sei pingue, bambino Albertino, biondino, coi capelli a spazzola. Eh beh sì, l'aspetto fisico non è lo stesso. Avrai anche assorbito lo spirito di Sandokan, però a vederti così non è che fai paura. Comunque, dopo aver visto Sandokan in DVD, tu hai acquisito i poteri di Sandokan. Io ho acquisito i poteri di Sandokan, infatti seguo tigri, no? Che nessuno ha visto e nessuno vedrà. Ma come sarebbe a dire? Ma non avete visto la folla impazzita che scappava? No, sì, vabbè. Poi dopo, quando io ho irretito la bestia, e poi dopo sono venuti tutti a complimentarsi, mi applaudivano. Ma io non ho visto, bambino Albertuno. Nemmeno io. Ma come no? Sono diventato l'eroe dell'asilo. Bambino Lino Patruno, semmai, Albertuno. È giusto, sì. Bambino Lino Patruno, che palle. Però dai, l'asilo è tranquillissimo. Non mi sembra il posto in cui si è appena vista una tigre, dai. Insomma. Adesso li vedete tutti tranquilli perché si sentono sicuri, no? Hanno visto che posso proteggere. Ci sei tu, allora sì. Sandokan è Sandokan. Lo sai, vero, bambino Albertuccio, che Sandokan non esiste, no? Chi? Sandokan. Come non esiste? Non esiste Sandokan. Drago, non ho capito, ma allora tu pensi che sia pazzo? Cosa? No, perché sei sempre lì a dirmi che il mio amico Gido non esiste? Amico Gido non esiste, Gido non esiste. Vabbè, allora, cioè, io come amico sono Gildo, e adesso arrivi tu a dirmi che Gido non esiste. Vabbè, Gildo, vabbè, ok. Hai ragione, però, scusa, se è così. Poi mi succede questa botta di fortuna di assorbire lo spirito di Sandokan, che mi fa sentire forte. E tu mi dici che non esiste neanche Sandokan. C'è ragione. Cioè, allora, Drago, a questo punto, almeno tu esisti? Vabbè, io esisto, certo che esisto. E io come faccio a saperlo? Te lo dico io, sono qui, esisto, eccomi qua, no? Sandokan invece esiste solo in TV o nei libri. Ha inventato tutto un certo Emilio Salgari o Salgari, che è vissuto tanti anni fa, prima ancora che tuo nonno Spugna nascesse, pensa. Ma come? Sì, è così. Ma sì, vabbè, comunque, bambino Albertino, tu fai finta che esista Sandokan, non importa, dai, scusa, Drago, ma anche vabbè. Tu, cosa Scusate, perché avete dovuto dirmelo per forza? Che Sandokan non esiste. Ma hai rovinato tu, Drago, non so cosa ti è venuto in mente. Esageri, come Babbo Natale, dai, prima o poi si viene a scoprire che Babbo Natale non esiste. Ma come? Anche Babbo Natale non esiste? Ma dai, lo sai anche tu, scusa. Ma cosa lo so? Lo sai. Io non so niente. Io credo che ci sia, no? C'è Babbo Natale, la Finlandia, le renne. Ma cosa dici? Ma guarda che stai dicendo delle balle. Ti eri già accorto che Babbo Natale era tuo zio Re? Hai detto tu. Cosa? Vabbè, qualche sospetto l'avevo avuto. Vedi, allora meno Babbo Natale non te l'ho rovinata io. Mio zio Remo, no? Sì. Quello da cui ho passato il Natale, è pieno di lei. Sì. E anche il Babbo Natale che è venuto quella sera lì era pieno di lei anche lui. Guarda, che combinazione. E poi in più, oltretutto, mio zio in quel momento non c'era, era sparito. Però c'era Babbo Natale, hai capito? Però mi sono detto, magari è una casualità e avevo ancora un po' di speranza. No, niente, non esiste Babbo Natale. Cioè, quindi mio zio Remo è Babbo Natale. Ma in un certo senso. Vabbè, allora, Sandokan chi è? No, ma Sandokan è un pirata immaginario che vive solo in TV. Nemmeno tuo zio Remo si travestirà mai, anche nei libri, non si travestirà mai da Sandokan per farti piacere, perché da Sandokan si traveste al massimo solo Kabir Bedi quando va a rimorchiare in centro Nuova Delhi, magari qualche ragazza. Cosa c'entra adesso la vita sentimentale del vecchio Kabir Bedi? Magari, ma perché vecchio? Vecchio. Dire. No, magari c'entra, no? Tito! Eccolo lì ancora la tigre. Tigre. Vieni qui se hai coraggio. Eccolo. Affrontami. Sì. stupida bestia della savana, vieni qui. Savana, in India. Pustami qui, mangia pupone. Questo ti metto a catena, eh. Oi, ragazzi, io mi sono già rotto con questa tigre. Portatela un po' a pisciare, almeno smettere di rompere le scatole. Vabbè, ho detto solo scatole, no? No, hai detto anche pisciare, eh. Piace l'umami. Ma cos'è? Ma non l'umami lo sa nessuno. È il settimo sapore. Cos'è? Ma quinto gusto. Senza sapore. Salato. Dolce. Amaro. Acido. Umami. E mandate i vostri umami alternativi a chiedoasilo@radio24.it.